Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. I commenti il giorno dopo il possibile golpe militare in Russia, poi sfumato a opera della Brigata Wagner che era diretta verso Mosca e che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso per le conseguenze che avrebbero potuto derivarne. Sentiremo il parere di un esperto. Ripartito a Trieste il progetto Overnight, che si propone di prevenire gli abusi di alcol da parte dei giovani durante la movida del sabato sera. Inaugurata a Faradisonzo una mostra archeologica basata sul ponte di epoca romana. I reperti esposti sono solo una piccola parte di tutto il patrimonio lapideo che giace ancora sul letto del fiume. Si separano le strade della Pallacanestro Trieste e di Coach Marco Legovic. La società informa di aver deciso di non rinnovare il contratto al capo allenatore della passata stagione, conclusasi con la retrocessione in A2. A Trieste si conclude oggi la quarta tappa del campionato regionale di skateboard, una cinquantina ragazzi in gara da tutto il Friuli Venezia Giulia. Le 12 e 16 minuti, questi titoli ancora una buona domenica da Giorgio Bearz e Maria Spezia che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia del 25 giugno. In apertura dunque i commenti il giorno dopo il possibile sfumato golpe militare in Russia a opera della Brigata Wagner che era diretta verso Mosca e per la quale il capo Prigozhin ha deciso all'ultimo momento la retromarcia evitando così un possibile bagno di sangue, addirittura una guerra civile. Ma la situazione rimane tesa e incerta in uno scenario complesso, in un momento molto delicato del conflitto con l'Ucraina che sta recuperando posizioni. Ne abbiamo parlato con il docente di storia dell'Europa orientale e di politica estera russa contemporanea dell'Università di Trieste, Cesare Lamantia. Professor Lamantia, cosa è successo nella giornata di ieri per i non addetti ai lavori? È successo un tentativo di colpo di Stato che non è riuscito, perché all'autore principale, il capo della Wagner, è venuto meno l'appoggio di chi probabilmente c'era dietro. La domanda che dovremmo porci è se è l'Occidente centrato in tale tentativo di colpo di Stato. Chi ci perde di più, Prigozhin o Putin? Entrambi. Il primo perché non è riuscito in un qualcosa che avrebbe dovuto farlo diventare probabilmente il leader della nuova Russia. L'altro perché ha sulla propria autorevolezza, anzi sul proprio autoritarismo, il proprio potere ed è stato contestato con violenza potenziale. Lei insegna al corso di laurea di scienze internazionali diplomatiche a Gorizia. La domanda è quanto è difficile formare personale diplomatico che cominci a conoscere come funziona la Russia. Noi diamo le basi, sia nella triennale che nella magistrale, dove si specializzano di fatto. Poi è la Farnesina che li forma in maniera indirizzata a determinati paesi. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Con la guerra in Ucraina si è visto che l'esercito russo non era poi così potente come si pensava, tanto da richiedere l'uso delle milizie private. A dirlo l'avvocatessa e attivista iraniana per i diritti umani Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace 2003, intervenuta ieri sera a Lignano Sabbiadoro, dove ha ricevuto il premio Hemingway per la sezione Testimone del nostro tempo. Io e molti miei connazionali abbiamo più volte protestato contro l'invasione russa della Crimea, ha aggiunto Ebadi, e denunciato che il regime iraniano aiuta Putin in questa guerra. Il regime iraniano è sempre molto accondiscendente verso la Russia, ha continuato Ebadi, perché è uno dei paesi membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Se Putin cadrà, ha concluso Ebadi, cambierà anche il regime in Iran. Cambiamo decisamente argomento. È ripartito infatti ieri a Trieste il progetto Overnight, che si propone di prevenire gli abusi di alcol da parte dei giovani durante la movida del sabato sera. Infermieri e operatori riconoscibili da una maglietta con il logo Overnight saranno presenti per tutta l'estate nelle aree di aggregazione più significative, con un gazebo nella zona tra Via Torino e Piazza Venezia, luogo di ritrovo privilegiato da giovani e giovanissimi. Gli operatori di Overnight che ieri sera erano nella zona di Via Torino e delle vie adiacenti della movida triestina hanno intercettato quasi 300 ragazzi dai 14 ai 25 anni. Giovani, spiega Antonia Contino, responsabile del progetto del Dipartimento delle Dipendenze della SUGI, che hanno soprattutto bisogno di un dialogo e un confronto con persone adulte che non demonizzano e che danno loro delle risposte in merito alle difficoltà che possono essere essere anche legate all'abuso di alcol o sostanze psicotrope. L'obiettivo più immediato del progetto Overnight, che è sostenuto anche con il contributo di Trieste Guida Sicura, finanziato dal Consiglio dei Ministri e dal Comune in partenariato con il Burlo Garofalo, è quello di educare i giovani a non mettersi alla guida dopo aver assunto alcol o droghe. E a questo proposito, ieri sera sono stati distribuiti oltre 200 biglietti con corse urbane per i taxi. Il progetto, che poggia anche sull'aiuto degli operatori del 118, delle cooperative sociali La Quercia e 2001 e ai volontari ALT, mira a fare anche prevenzione contro le dipendenze, che spesso coinvolgono anche giovanissimi. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo al meteo. Il cielo è sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 26 gradi e mezzo, il mare è poco mosso con temperatura di 23 gradi a Gorizia, Udine 27, a Pordenone 27 gradi e mezzo, in area montana Tolmezzo 24 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 21, Tarvisio 21 gradi e mezzo, Sappada 20, Piancavallo 18 gradi in quota sul Monte Zoncolan 15 e sul Monte Lussari 13 gradi, sulla costa Grado 26, a Lignano 27 gradi, la temperatura del mare nelle due località è di 25 gradi. E queste le previsioni dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Nel pomeriggio il cielo sarà in prevalenza sereno, venti a regime di brezza. Domani al mattino cielo in prevalenza sereno, nel pomeriggio sereno sulla costa, poco nuvoloso in pianura, variabile in montagna, dove seppure con bassa probabilità non si esclude qualche locale rovescio temporalesco al confine con il Veneto, venti a regime di brezza. Inaugurata a Farra di Sonzo una mostra archeologica basata sul ponte di epoca romana, i reperti esposti sono solo una piccola parte di tutto il patrimonio lapideo che giace ancora sul letto del fiume. I percorsi di pietra tracciati dal grande ponte sull'Isonzo parlano innanzitutto di ingegneria stradale romana. Edificato nel III secolo d.C., 12 campate per quasi 200 metri di ampiezza, più volte distrutto e ricostruito, ne rimanevano ruderi visibili fino al tardo Medioevo. Ma nelle varie ricostruzioni vennero impiegati blocchi di pietra asportati da monumenti antecedenti di origine civile, militare e soprattutto funeraria. Lapidi che riportano iscrizioni, date, nomi che delineano un complesso puzzle di storia territoriale che l'associazione Lacus Timavi pazientemente sta cercando di ricostruire. L'archeologa Gabriella Petrucci fa parte del team che ha curato l'allestimento. Era il punto di passaggio della via più importante che da Aquileia conduceva fino a Demona, cioè l'odierna Lubiana. Connetteva sostanzialmente l'Occidente e l'Oriente. Oltre al ponte, una mansio, cioè una stazione di sosta, dove appunto le persone potevano trovare sosta, riparo, cambio di cavalli. E speriamo che questa piccola mostra sia il primo passo verso la realizzazione di un vero e proprio museo archeologico in questo territorio. Farra di Sonzo, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Una notizia di basket: si separano le strade della Pallacanestro Trieste e di coach Marco Legovic. La società informa di aver deciso di non rinnovare il contratto al capoallenatore della passata stagione, conclusasi con la retrocessione in A2. Ringraziamo Marco per il suo lavoro, la sua passione, la sua dedizione, oltre che per la disponibilità dimostrata in queste settimane in cui ha atteso una nostra decisione che, seppur sofferta, è maturata nell'ambito del nuovo progetto sportivo, ha dichiarato il presidente della Pallacanestro Trieste, Richard De Meo. La rinascita della Pallacanestro Trieste deve procedere attraverso questo passaggio e richiede in questa fase un capo allenatore che possa contare su una lunga esperienza in panchina, ha proseguito De Meo. La società, continua il presidente, ha lavoro su questo tema e sta valutando una serie di profili, sia italiani sia esteri, per il ruolo di allenatore. L'obiettivo è quello di raggiungere una decisione prima possibile, probabilmente nella prima settimana di luglio, ha concluso De Meo. A Trieste si conclude oggi la quarta tappa del campionato regionale di skateboard. Una cinquantina di ragazzi in gara da tutto il Friuli Venezia Giulia. Nello skate park di San Giacomo a Trieste sembra di essere in un angolo di California, la patria dello skateboard. Musica, rap e tanti ragazzi per la quarta tappa del campionato regionale alla sua seconda edizione, a cui partecipano le diverse associazioni di skateboard della regione. Campionato che si concluderà con la quinta tappa a settembre a Lignano. I partecipanti, circa 50, hanno tra gli 8 e i 35 anni, accumulano punti per la classifica generale che decreterà il vincitore. Per mostrare le loro abilità sulla tavola con quattro ruote e hanno due prove da soli 45 secondi. Ma la gara non è tutto. Il campionato è anche l'occasione per consolidare un gruppo, una comunità di appassionati che di recente si sta allargando anche alle ragazze prima diffidenti verso lo skate. L'interesse per questo sport è in crescita, ci dice il presidente della Skate School di Trieste, Alberto Spreafico. La difficoltà maggiore è trovare spazi adatti per allenarsi in sicurezza. Il presidente si augura una riqualificazione degli impianti esistenti e nuovi investimenti. Lo skateboard non è solo divertimento, aggiunge, ma un'attività fatta di solidarietà e sostegno reciproco e un modo per stare all'aria aperta, conclude, indicando alcuni paia di scarpe da skateboard consumate appese agli alberi dello skate park di San Giacomo. Di Via Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E a Trieste si conclude questo pomeriggio sulla Riviera di Barco il Water Polo Beach Party con le finali di pallanuoto e gli Open Day aperti ai giovanissimi tra gli 11 e i 13 anni interessati a conoscere meglio questo sport. E si conclude così questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Berz, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello e di Vascia Chris Mancic. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 18.30. A tutti voi l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.